ci possono essere degli aspetti oggettivi, che possono essere il soggetto, l'autore, l'epoca, le caratteristiche e così via, ma bisogna distinguere tra i dati o le date e invece l'emozione dell'incontro con l'opera d'arte. Questa è nata per comunicare, per dire qualcosa. Se questo qualcosa è obbligato, è obbligatorio, no, è proprio sbagliato. Allora, a questo punto provo a intervenire io dandovi un'idea che noi abbiamo utilizzato in famiglia e in realtà consigliato anche ad altre famiglie. Sembra aver funzionato ed è entrare in un museo con una sorta di piccolo progetto, cioè chiedere a un figlio oppure a uno studente, muovendosi nel museo, di lasciarsi conquistare da un'opera in particolare, rispetto alla quale può fare una reinvenzione artistica e quindi entrerà con un blocco del materiale per colorare, o se è più bravo a scrivere, potrà compilare una sua storia di quel quadro, una sua suggestione intorno a quel quadro e alla fine della visita al museo lo regalerà al genitore che l'ha accompagnato e magari in palio in cambio avranno stabilito una cosa bella, gratificante che il bambino può fare subito dopo la visita al museo. Secondo me questa è una modalità con cui avrete un bambino, un figlio, un ragazzo, intanto che si muove per le sale di un museo alla ricerca di qualcosa che lo ispira in modo particolare e poi che si appassionerà a qualcosa in modo particolare e credo, dopo che ha lavorato intorno a quell'opera, andrà a cercarsi anche la storia reale di quell'opera e cercherà di capire che cosa c'è dentro che l'ha così attirato. Dottor Zuffi, Alberto praticamente ci propone, è un po' un tranello, è un compito mascherato. Beh, ma è mascherato bene, perché c'è questo aspetto del gioco e c'è questo aspetto della caccia al tesoro. Questo tema della caccia al tesoro dovrebbe essere, come dire, grato e caro non solo ai ragazzi, ma anche agli adulti. Noi abbiamo un tesoro, ce l'abbiamo davvero. È vero, sì. E questo tesoro è lì che aspetta solo di essere scoperto. E per scoprirlo, anche mettersi in caccia, mettersi in cammino, mettersi un po' in un'avventura, davvero vuol dire partecipare. Ecco, prima c'è stato questo intervento così interessante di questa mamma di un 14enne amante di Parigi e con questo tentativo un po' fallito del Louvre. Ecco, il grande nemico da combattere è l'indifferenza, è la noia, non è mai l'errore. I ragazzi non sbagliano mai quando parlano delle opere d'arte o quando entrano in comunicazione con le opere d'arte. Invece la cosa più pericolosa è proprio la fatica, la noia, il tedio e l'indifferenza. Ecco, il grande pericolo è quello dell'indifferenza. Dottor Zuffi, lei dove l'avrebbe portato il 14enne a Parigi? Io l'avrei portato senz'altro al Louvre, ha fatto benissimo portarlo al Louvre. Forse non era il momento giusto, forse non era la situazione giusta e forse il Louvre è talmente colossale, gigantesco e soverchiante che bisognava darsi subito un obiettivo. Andiamo al Louvre a vedere puntini puntini. Dottor Zuffi, a proposito di vedere, lei ci ha suggerito il Museo San Marco di Firenze. Venezia, Napoli e Roma, tre musei su quella stessa onda. Che cosa ci suggerisce? Allora, Venezia, due alternative. Uno non è proprio un museo, ma insomma luoghi d'arte, diciamo. Palazzo Ducale. Sì. Palazzo Ducale è un posto dove proprio si sente palpitare questa storia della gloria di Venezia, oppure, un po' più piccolo, più raccolto, il Museo del Settecento Veneziano a Carezzonico. Bellissimo. Poi abbiamo detto Roma. Roma. Come si fa a non dire la Galleria Borghese? Però la Galleria Borghese ha un po' il problema della prenotazione, del numero fisso, delle persone che possono entrare. Allora forse, perché non i Musei Capitolini? Via. I Musei Capitolini c'è questo allestimento della sala del Marco Aurelio, di questa grande scultura equestre di bronzo che è... Toglie il fiato, come si dice. Sì, è proprio vero. Impressionante, proprio impressionante. Napoli è tutta un museo da scoprire, certamente le Gallerie di Capodimonte attualmente è forse il più spettacolare museo aperto in Italia, sono 106 sale aperte, per cui veramente una grande, un grande show, un grande spettacolo,